diamo la parola a Sergio Meli. Come vi ho detto, Sergio ha la delega, ma molti di voi lo sanno benissimo, su tutta la partita delle politiche sociali come segreteria della CISL del Piemonte, quindi ascoltiamo il suo intervento, dopodiché ridaremo la parola ai nostri ospiti per la replica e per le domande che sono state fatte. Vai Sergio. Grazie. Intanto grazie, vi porto naturalmente il saluto di Alessio Ferraris, il segretario generale dell'USR e di tutta la segreteria. Per me è un onore essere qui oggi a parlare con voi e con un'iniziativa così importante, perché se parto dagli stimoli che sono emersi sia dal dibattito ma anche dagli interventi, il grande discorso, ancorché focalizzato sui farmaci, è il discorso della salute. Salute come bene primario, perché senza quel bene primario lì tutte le altre cose non possono venire di conseguenza. E allora un sindacato ha al centro il benessere delle persone in tutti i suoi aspetti e anche in quello primario, appunto, della salute. E quindi noi non possiamo recedere da questo impegno. Da parte mia, in questo periodo che ho seguito tutta la partita della sanità e che ho avuto anche insieme ai colleghi dell'FNP, Mario Ghibaudo e Vito Sollazzo, perché hanno le deleghe specifiche, abbiamo seguito insieme tutta questa partita, ci siamo resi conto che per partire proprio da uno stimolo del dottor Giustetti, il discorso esiste la sostenibilità, forse è declinare meglio un argomento di programmazione e governo della spesa. Perché, come appunto anche detto più volte, si è andati anche molto fuori controllo, e in modo particolare in Piemonte voi sapete che noi siamo una regione che è in piano di rientro proprio perché ha sforato tutta una serie di parametri. Questo Piemonte che però è anche in grado di fare dei grandi passi avanti, perché voi avete, mi pare, in cartelline dati fino al 2014, però da un'analisi sui primi 7 mesi, per esempio, del 2015, noi vediamo che un passo in avanti nella risistemazione della spesa, chiamiamola così, perché non è neanche razionalizzazione perché sa di taglio, ma risistemazione, che vuol dire orientare, vuol dire governare, vuol dire avere la possibilità di gestire le risorse per fare quello che serve e non per toglierle e metterle da altre parti, ma per usarle sempre per la salute, ma in quei filoni che sono necessari. Allora noi dobbiamo sicuramente tenere presente che appunto un grande elemento ci dice che noi siamo ancora fuori rispetto ai parametri della spesa per quanto riguarda la composizione della spesa, nella spesa ospedaliera, decisamente è rientrato ed è migliorata tutta quella che è la situazione che attiene invece alla spesa farmaceutica di livello territoriale. Questo grazie probabilmente, dico io, da un lato la decisione di programmare e governare, dall'altro ha un grande lavoro che è alla base di quello che veniva fuori oggi, che è un impegno anche su un aspetto più culturale e di educazione, perché noi non possiamo parlare di questi argomenti, parlavamo di stili di vita, di scelte e quant'altro, se però non mettiamo in campo anche un progetto di appunto culturale, di educazione, che parte fin dal bambino piccolo che va in avanti, perché se riteniamo di poter arrivare solo poi quando si è più avanti negli anni, il discorso è perché non si è utilizzato tutto il tempo precedente. Per cui noi abbiamo necessità di investire su un tema come quello della salute in maniera molto ampia. E sicuramente dobbiamo anche renderci conto di una cosa, che tutto il federalismo sanitario che è venuto avanti in tutti questi anni probabilmente non ha dato i risultati che si voleva che avesse, perché si è arrivati a oggi a risorse in difficoltà, a risorse ridotte, al fatto che ci si è resi conto che forse non si era governata la situazione, e per cui noi abbiamo una situazione all'interno dell'intero paese che è molto diversificata, ma che soprattutto in varie aree è proprio fuori controllo e in qualche modo mette capo a una difficoltà generalizzata e fa fare quei discorsi che sono un po' distorsivi, scambiando la proprietà con la forse la giusta la giusta prescrizione, che è una roba diversa, perché la appropriatezza appunto mette al centro, e qui per me è il punto nodale, mette al centro la persona, fa sì che si abbia l'attenzione alla salute, quindi alla persona. Si è parlato di personalizzazione, di individualizzazione della cura oggi, no? Anche contro l'eccessiva medicalizzazione, perché a questo punto forse il problema è che spesso la persona è vista un po' a compartimenti stagni, e noi, mi permettano se magari sarò impreciso, però è una cosa un po' più da esterno, ho un po' la sensazione che anche una certa formazione in campo medico abbia negli anni portato a non vedere proprio la persona nella sua interezza e nella sua complessità, ma abbia un po' puntato a guardare la persona come portatrice di malattie specifiche in determinate parti del corpo. La dico così, è brutta, non è scientifica, è terra terra, ma così ci capiamo. E questo è peggiorato negli anni, perché prima era mitigato dal rapporto che c'era tra il medico e la persona e il malato. Negli anni c'è stata anche una certa spersonalizzazione del rapporto tra medico e malato, dovuta ai numeri, dovuta ai tempi, dovuta a una organizzazione probabilmente anche che non era a servizio della persona. E man mano questa cosa si è accentuata. Noi oggi abbiamo bisogno di recuperare, e qua andava secondo me molto bene in questa direzione tutto l'intervento che c'è stato oggi, tutti gli interventi, ma anche alcune sollecitazioni successive, perché il discorso è proprio questo: recuperare la persona nella sua interezza e nella sua complessità, andando sostituire, la dico in questi termini, andando a sostituire quella che oggi, quelli che oggi sono gli interessi delle case farmaceutiche con quelli che sono gli interessi di salute del cittadino. Questo è un po' il nodo e il quadro nel quale noi abbiamo necessità di muoverci. E allora come possiamo lavorare in questa direzione? Come organizzazioni sindacali, all'interno del riassetto della rete ospedaliera e della rete territoriale dei servizi delle ASL, abbiamo cercato di operare in questo senso, ovvero se è vero che dobbiamo spostare il baricentro dall'ospedale al territorio con i servizi, noi abbiamo posto come attenzione principale che ci fosse la contestualità per costruire appunto i servizi territoriali, ma abbiamo anche detto che questa operazione non si può fare se non abbiamo i servizi che ci sono appunto sul territorio, e questo vuol dire che io devo avere le unità complesse di cura primaria nel territorio, devo avere quelle che sono le associazioni dei medici che operano anche in maniera, possiamo dire, correlata, io ho bisogno di avere servizi che non sono a disposizione del cittadino 2 ore al giorno. Perché è chiaro che il medico, se riceve 2 ore al giorno e ha la coda, non riesce ad avere un rapporto personale con il suo paziente. Io devo avere la possibilità di costruire anche i tempi perché questa relazione si costruisca, se no stiamo raccontandoci delle frottole. Allora anche l'organizzazione concreta deve andare in questa direzione, e allora noi dobbiamo però lavorare in questo senso e fare in modo che questi tempi distesi che sono necessari per costruire la relazione in qualche modo vengano anche rispettati. E certamente poi da parte nostra abbiamo necessità invece di imparare da parte nostra come costruire questa relazione, come favorirla, no? Utilizzando al meglio il tempo che abbiamo a disposizione col medico per interloquire con lui, per raccontargli tutta una serie di cose. Io non ve la faccio lunga, però per esempio mi faccio riferimento a un decalogo che il nostro Adiconsum, la nostra associazione dei consumatori della CISL, ha fatto, ma ce ne sono anche altri, io li ho presi in una serie, dicono più o meno tutti le stesse cose, ma sono molto utili, no? E cosa ci dicono di fare? Ci dicono innanzitutto che è importante assumere i farmaci che ci dice il medico e non quelli che ci consigliano gli amici, e neanche quelli che abbiamo sentito durante uno spot pubblicitario magari, o che abbiamo cercato su internet. Ci dicono che è necessario, quando si va anche dal medico, quando ci dà una medicina, chiedere di essere informati su come quel farmaco funziona, che effetti può avere, su che cosa devo fare attenzione perché funzioni veramente su di me. Quindi costruire la relazione, parlare apertamente col medico raccontandogli anche quelle cose che magari non ci fa tanto piacere raccontare, perché abbiamo sempre un pezzo di recondito di nascosto che abbiamo un po' timore di raccontare, e invece col medico va fatto, perché sennò poi non c'è l'appropriatezza della prescrizione. Abbiamo bisogno di informarlo sulle nostre possibili allergie se le conosciamo, abbiamo bisogno anche di raccontare al medico se durante una cura abbiamo notato dei cambiamenti, delle cose che in qualche modo a noi possono anche sembrare poco importanti, ma che al medico invece dicono delle cose. Poi dobbiamo però rispettare le indicazioni che ci vengono date, gli orari, le posologie. Non è che se poi mi dimentico di prendere una pastiglia al mattino ne prendo 2 la sera, oppure oggi non mi sento tanto bene per cui la salto. Ci sono anche queste cose, perché poi noi siamo anche un po' fatti in questo modo. Parlo per esperienza personale, attenzione, non sto facendo il pelo a nessuno, ma a me stesso. E poi abbiamo anche fare attenzione quando prendiamo altri farmaci e comunicarlo, perché questo è importante. Poi c'è un aspetto molto importante, che è la conservazione dei farmaci, facendo anche attenzione che alcuni farmaci, una volta aperti, poi hanno una scadenza diversa da quella che è prevista sulla scatola, perché è stato aperto. Allora su queste cose noi dobbiamo fare una serie di attenzioni, ma come dicevo, io ve le ho dette così a spot, a velocità, ma proprio per dire che ci sono delle attenzioni, e anche codificate in maniera molto chiara, perché noi in qualche modo possiamo anche migliorare la nostra capacità, da un lato di costruire una vita migliore con uno stile di vita eccetera, ma anche con delle relazioni necessarie. Faccio poi una piccola puntatina su un argomento che è quello della medicina di genere, perché quello è un altro aspetto molto importante di cui tenere presente, di cui tenere conto, perché alcuni medicinali hanno effetti differenti somministrati tra persone diverse, ma anche tra genere maschile e femminile. Proprio su questo tema il 31 marzo il coordinamento delle politiche di genere della CISL Piemonte organizza un'iniziativa è una riflessione che noi dobbiamo imparare anche a fare, facendo attenzione che il fatto di dire che ci sono differenze non è un voler negare che abbiamo tutti gli stessi diritti, ma è fare in modo che non si facciano parti uguali tra disuguali, come diceva Don Milani, e che quindi facciamo attenzione a veramente costruire un sistema che risponde ai singoli, quindi pensa all'individualizzazione. Mi viene da dire che in prospettiva, con uno slogan, noi dobbiamo avere dei medici che siano un po' più pazienti, e dei pazienti che, proprio perché sono stati un po' attenti, hanno imparato a essere un po' più medici, in qualche modo, in senso positivo, sono più sani. Quindi questa è un po' la prospettiva nella quale noi dobbiamo cercare di muoverci. Concludo con un'esperienza personale. Mi è capitato recentemente di avere, no, lo sapevo già perché è un regalo che mi viene dalla famiglia, di avere il classico problema che quando arrivi verso i 50 anni esplode, che è quello dell'ipertensione. Collegato allo stile di vita, perché negli ultimi anni sono anche ingrassato notevolmente, quindi a un certo punto mi sono reso conto di questa cosa. Sono andato dal mio medico, ho fatto tutti gli accertamenti, eccetera. Ma la cosa che mi è piaciuta è stato che, andando dalla cardiologa, la cardiologa mi ha dato delle indicazioni rispetto a un farmaco che il medico mi aveva dato. E quando io sono andato dal medico, il medico era indeciso tra un medicinale e un altro, che però era un beta bloccante, io ho detto: lì non arriverei, perché poi magari non ne esco più se riesco veramente a perdere peso, a scendere, a controllare in altra maniera. L'altra cosa che ho fatto, mi sono iscritto in palestra. Ovviamente, dico due cose concrete. Ci vai anche? Ci vado anche. Anch'io sono iscritto. No, io sono iscritto, e se voi scendete nel mio ufficio sotto c'è la borsa della palestra, perché quando è possibile vado in pausa pranzo, se non riesco ad andare in altri momenti. E quindi questo è il senso. Allora, su questa esperienza chiudo, è che probabilmente abbiamo anche bisogno di aiutarci nel costruire alcune risposte, delle attenzioni che partono dal singolo, che poi, quando sono raccolte in queste situazioni, diventano collettive e possono essere meglio rappresentate anche nel confronto con la politica. Grazie Sergio.